Ecco, in realtà non era questo con cui volevo cominciare, ma il presente è adesso, ovvero lunedì sera, primo novembre. Buon novembre a tutti. Io vi dicevo, sono sempre io, Stefano W. Pasquini, questo è Coxo Spaziale. Qui parliamo di arte contemporanea e di teatro. Di teatro in realtà ultimamente ne parliamo molto poco, proprio perché Fedra ci manca. Parliamo molto di arte contemporanea, ma ci manca anche Chiara, che salutiamo entrambe. E invece oggi parliamo un po' di arte moderna, e il jingle che volevo farvi sentire in realtà di solito lo sentiamo dopo le 19:30, ma sentiamolo lo stesso. L'angolo della menzione. Questa in realtà è una menzione che abbiamo sentito anche la settimana scorsa, proprio per annunciare che il 29 ottobre ha inaugurato la mostra di Giovanni Boldini intitolata Lo sguardo nell'anima a Palazzo Albergati. È una mostra meravigliosa, vi consiglio altamente di andarla a vedere, soprattutto se vi piace quel tipo di pittura fresca, veloce e ottocentesca, anzi arriva fino ai primi del Novecento, ma Giovanni Boldini è un maestro riscoperto da non tantissimo tempo, da una trentina d'anni, e la mostra è a cura di Tiziano Panconi, se non sbaglio. Tiziano Panconi, eccolo qua. E devo dirvi una cosa che magari non interessa, però insomma io ammiro tantissimo Boldini, sono andato a vedere anche la mostra che c'era stata a Ferrara, eccetera. Ma devo dire che all'interno di quella mostra, secondo me, secondo la mia modestissima opinione, ci sono un paio di opere che non sono, hanno una provenienza secondo me un po' dubbia, nel senso che a me non convincono. Io penso che secondo appunto la mia opinione personale, non voglio assolutamente accusare nessuno, ma forse non sono esattamente della mano di Boldini stesso, semplicemente perché sono molto strani rispetto a tutte le altre opere. Sono dei pastelli molto grandi, ma più che altro molto contemporanei, non sembrano disegnati ai primi del Novecento, bensì ai primi degli anni 2000. Comunque questa è una non importa, cioè questa cosa non deve assolutamente far sì che non vi voglia far andare a vedere questa fantastica mostra, perché ci sono dei pezzi straordinari, fra l'altro anche opere di altri autori dello stesso periodo, tra cui adesso vado a vedere il comunicato stampa, tra cui Corcos, Salvatore Postiglione, eccetera eccetera, poi ce ne sono non pochi, e che ci dà appunto ci porta in un excursus all'interno di quel mondo, di un mondo che ormai è, come sappiamo, è scomparso, ma c'è tanto da pensare in una mostra del genere, perché poi appunto è strutturata su due piani e ci sono veramente tantissime opere. Ma andiamo a sentire brevemente che cosa ci ha raccontato Panconi alla conferenza stampa. Questa mostra, diversamente da altre mostre, ha un titolo, un sottotitolo, si chiama Lo sguardo nell'anima. Perché Lo sguardo nell'anima? Perché proprio in questa ricorrenza del 90° anno dalla morte ci siamo posti il problema di voler, diciamo, svecchiare un po' questa immagine stereotipata che ha Boldini di pittore da coperchi di cioccolatini, cioè che dipinge questi visini, queste bamboline che sono ritratti, diciamo, belli di per sé ma fine a se stessi. No, Boldini, se voi guardate questi ritratti, questa galleria di immagini che si susseguono in maniera molto elegante, anche con un percorso che insomma, si può avvertire come una progressione stilistica, diciamo dagli anni, la mostra inizia con il suo autoritratto a 14 anni, fino, diciamo, agli anni della piena maturità, quindi al Novecento inoltrato. Ecco, un pittore non interessato a una bellezza effimera. Se voi guardate questi ritratti, per esempio ne abbiamo uno emblematico che è il generale spagnolo, ecco, voi vedete che in questi sguardi, in questi occhi, aleggia sempre un senso di malinconia. Lui ritrae le sue figure non soltanto restituendone un ritratto estetico, cioè quindi non Boldini pittore di volti, pittore di corpi, ma Boldini pittore di anime. Lui faceva posare questi personaggi davanti al suo cavalletto, ci sono testimonianze in cui si racconta che lui addirittura perdeva tempo, li faceva tornare in studio 30 volte, 20 volte, prima iniziava a fare dei disegni, poi cominciava a parlare con loro, poi si faceva raccontare queste realtà di donne spesso insoddisfatte, frustrate, che avevano dei rapporti chiaramente insoddisfacenti con i loro mariti, con matrimoni imposti per via dinastica, e quindi lui da fauno, da grande affabulatore, scherzava con loro, cercava di capirle e di conoscerle. Ecco, questa conoscenza profonda poi chiaramente giungeva a un certo punto in cui lui finalmente faceva il ritratto. Però ecco, questa conoscenza profonda è il vero segreto di Boldini, che è stato definito molte volte uno stregone, perché lui raccoglieva un po', diciamo, questi petali di questi fiori talvolta appassiti, queste donne che giungevano allo studio dell'artista quando ormai la loro giovinezza era sfiorita, però lui ricomponeva questi petali di rose appassite e diciamo ne restituiva un ritratto comunque più giovanile, esteticamente più convincente, talvolta disinibito, talvolta sensuale, e quindi un'immagine sempre molto moderna, tant'è che le signore dell'alta società che si facevano ritrarre da Boldini, che naturalmente aveva un cachet con il pittore altissimo, cercavano chiaramente un ritratto non qualsiasi, non un ritratto accademico, ma cercavano appunto in Boldini anche la modernità che trovano. Resolution. Queste erano le fantastiche LA Axis con Get Some. Dicevamo, la mostra di Boldini sta su per un sacco di tempo, fino al 13 marzo 2022, per cui avrete modo di guardarla. E il prezzo del biglietto intero è 16 euro con l'audioguida inclusa, e il ridotto è 14, sempre con l'audioguida. Scoprirete tutto su www.palazzoalbergati.com, trovate anche il modo di comprare i biglietti online, eccetera eccetera, e naturalmente la mostra è in via Saragozza 28 a Palazzo Albergati a Bologna, e non perdetevela, mi raccomando. Adesso invece usciamo un attimo dall'angolo della menzione per andare a scoprire il cuore di questa puntata, ovvero la mostra di Francesco Lauretta al MAC di Lissone, che ha inaugurato con una nuova fantastica direttrice, Francesca Guerisoli. Sentiamo un po' delle sue parole rispetto a tutto quanto prese, carpite dalla conferenza stampa della settimana scorsa. Fuori porta. Perché ho fatto una mostra di Lauretta e non di qualcun altro? Perché ho proprio pensato che la prima mostra che inaugurasse la direzione artistica dovesse avere un legame con la storia precedente, no? Con quindi il museo stesso, e quindi quell'opera che veniva proprio dalle ultime acquisizioni del premio Lissone Pittura, per me è stato un, come dire, il là. E poi perché questo nasce come un museo per custodire una collezione di pittura storica. Ecco perché ho pensato Lauretta è l'artista ideale nel nostro caso, perché iniziamo con una mostra di pittura in un museo che nasce per una collezione storica di pittura, e con un artista già noto ai lissonesi, perché quest'opera è stata molto riprodotta proprio in occasione del premio Lissone 2021, addirittura anche sulla copertina della lettura del Corriere. Quindi, diciamo, è un modo per portare i cittadini e le cittadine a dire: ah, vedi che quell'opera adesso capisco molto di più di quell'opera. Perché? Perché è contestualizzata, perché non è lì da sola, diciamo, tra un altri gruppi di opere di altri artisti, giustamente, in una collettiva, è così, ma è contestualizzata all'interno di un percorso artistico, dell'intero percorso artistico di Francesco Lauretta, e quindi sarà decisamente più apprezzabile dai cittadini stessi, cioè avranno tutti gli elementi per poter apprezzare qualcosa che è loro, perché non dimentichiamoci che comunque questo è un museo pubblico pagato dai cittadini. Quindi la mia necessità era proprio quella di avvicinare i cittadini a capire il valore di quell'opera. Poteva essere chiaramente anche un'altra opera, in questo caso stiamo parlando di Francesco Lauretta. Torneremo poi a parlare con Francesca Guerisoli, nuova direttrice del MAC di Lissone, in provincia di Milano, nella seconda parte del programma. Ma chi è questo Francesco Lauretta? Francesco Lauretta, dice il comunicato stampa, nasce a Ispica, Ragusa, nel 1964 e vive e lavora a Firenze ed è un pittore. Inoltre, dice sempre il comunicato stampa, è un artista poliedrico, fine pensatore e autore di scritti filosofici, noto nell'ambiente artistico per la sua straordinaria capacità di interpretare il mondo attraverso la pittura. Spesso i suoi lavori non si limitano alla bidimensione del quadro, bensì si estendono nello spazio attraverso l'impiego di materiali eterogenei, dando vita a installazioni multisensoriali. E qui al MAC di Lissone, che ahimè da Bologna sono quelle 2 ore e mezza di macchine, ma assolutamente è una mostra da non perdere, Lauretta riempie 3 piani interi del museo in questa sua appunto prima antologica museale, con una serie di dipinti, sicuramente la maggior parte sono tra i più importanti della sua carriera, e anche appunto alcuni oggetti e alcune parti che diventano a metà tra la pittura e l'installazione. Ma andiamo a sentire lui direttamente, che abbiamo intervistato. Francesco Lauretta, questa è la tua prima retrospettiva di metà carriera che in uno spazio istituzionale, o sbaglio? Sì, la prima metà carriera, non lo so. Beh, sembra lungimirante. Sei un giovane artista. In Italia sei un giovane artista. Sì, sono un giovane artista, ma io sono sempre un giovane artista, nel senso che la mia curiosità mi spinge sempre a cercare qualcosa imprevedibile nel corso della mia ricerca, insomma. Senti, questo personaggio un po' teatrale con questa maschera gialla che io vedo in copertina della mostra, che chi è? Raccontami un po'. Diciamo che io mi definisco solo un collettivo, insomma, è uno dei miei personaggi, o meglio delle figure che in qualche modo estendono le possibilità della mia ricerca, insomma, il dottor Passavento l'ha chiamato, e questo Passavento è una figura che in qualche modo definisco, o meglio dà più forma a quello di cui credo di essere un inesistenzialista, fondamentalmente. Quindi poter collaborare con questo personaggio mi consente in qualche modo di estendere la mia ricerca, mia come persona e quindi anche nella mia esistenza, mia come artista, insomma, anche soprattutto sua, perché poi ha formato anche una sua storia, quindi sono 4 anni che lui espone, che fa le sue cose, eccetera, per cui è piacevole incontrarsi ogni tanto e collaborare. Ogni tanto vi incontrate, ho capito, sì. Ma fa anche performance oppure performativo? Sì. Lui vive fondamentalmente con quella mise, no? Vestita di giallo, no? Pertanto in questa occasione lo vedremo probabilmente più avanti, non nella posizione della mostra, perché ci sono io. Nel momento in cui c'è lui, chiaramente mina la mia identità, no? Quindi mette in crisi la mia figura, insomma, no? Per cui ci sono questi strani contrasti, strani abbracci, no? Che sono necessari l'un l'altro per crescere, per portare avanti il nostro progetto, insomma. Tu hai un rapporto un po' particolare con la pittura, me lo vuoi raccontare? Cioè, come, perché mi hai appena detto che non volevi dipingere, infatti un po' si vede, devo dire, da come dipingi. Ma ho avuto un rapporto assai contraddittorio con la pittura, perché quando ho iniziato mi pensavo, cioè, la indossavo come una maglia stretta, insomma, mi dava proprio fastidio, sì, pensarmi come un pittore. Poi crescendo ho capito che invece la pittura aveva bisogno di nuove risorse, nuove possibilità, e questo mi ha consentito quindi di esplorarla in tutte le sue possibili declinazioni. Per me fondamentalmente, inizialmente per me era un corpo morto, un po' come, anche perché tu hai cominciato a dipingere quando la pittura era completamente fuori moda, o sbaglio? Non è un caso che quando ho iniziato a dipingere molti artisti e amici mi hanno tolto il saluto, insomma. Addirittura. Però capivo che era necessario, almeno per me, avevo intuito che aveva ancora delle possibilità, insomma, quando ho iniziato a dipingere, insomma, si parlava di pittura morta, ma insomma c'è sempre questo tema, certo, no, ricorrente, invece oggi ci scopriamo che è una delle risorse maggiori ancora. No? Sì, infatti ne parlavo con un critico l'altro giorno e mi diceva che secondo lui è proprio in questo momento storico è probabilmente il metodo più contemporaneo per comunicare qualcosa. Vedi, 20 anni fa era un medium, diciamo così, obsoleto. Esatto. Oggi sono altri medium che non si definiscono obsoleti, invece riscopriamo come la pittura sia talmente vivace, talmente possibile, talmente straordinaria. Se mi riferisco a grandi pittori contemporanei, che veramente, no, è solo salute e risorsa possibile, no? E da lì, quindi, insomma, è anche vero che in questa antologica ci sono 20 anni, e quindi 20, certo, tanti anni e modi diversi di interpretare e di capire, e soprattutto di sperare di continuare a fare un certo tipo di pittura, insomma. Però da questa mostra, che devo dire è una mostra da non mancare, veramente magnifica, si vede che la pittura non ti basta, cioè ci sono un po' di oggetti in giro, ci sono gli interventi sul muro. Non è che non mi basta, io ormai vivo, penso, vedo in modo pittorico, perché appunto qualsiasi cosa, no, diventa pittura. Sì, diventa pittura. Eccoci tornati alla seconda parte di Coxo Spaziale e stavamo parlando della mostra personale di Francesco Lauretta al MAC di Lissone. La mostra ha inaugurato il 30 ottobre, sabato scorso, e sarà visitabile fino al 29 gennaio ad ingresso libero, per cui prendetevi il treno fino a Milano e poi mi dice Francesca che ci sono treni da Milano Centrale e che in un quarto d'ora ti portano a Lissone e il MAC è esattamente davanti alla stazione, per cui non c'è bisogno di fare alcuno sforzo, giusto che suona lontano Lissone anziché Milano stessa. Detto questo, stavamo parlando con Francesco Lauretta, l'autore di questa personale, e parlavamo di riti, del fatto che adesso non ci sono più i riti di una volta, eccetera, ma andiamola a sentire. Sì, a proposito dei riti, peraltro è uscito recentemente un libro straordinario, no? Di Bunyan Chulan, che è questo filosofo coreano, in cui parla di questa mancanza dei riti o fine dei riti, che però fondamentalmente sono una risorsa, insomma, d'altronde tutta la nostra vita è accompagnata dal... No. Ah, certo. Come una campana del rito. A partire dalla nascita, per arrivare alla morte, naturalmente. Ci sono. E questi spolveri che tu metti, vedi, sono un po' un rito anche loro, no? Sì, beh, è chiaro, lo spolvero e la polvere, no? Adesso per i nostri radioascoltatori che non sanno cosa sia lo spolvero sono dei fogli di carta puntinati con dei piccoli buchetti che una che volta... sono le matrici degli affreschi. Degli affreschi. Mm. No? E quindi in quanto matrici in questo caso sono la fine, no? Certo. Sono dei finali, no? Non è un caso che il mio primo spolvero del 2010 okay. È intitolato Finale con la Terra d'Ombra Naturale, che già è tutto, no? Ti dà delle indicazioni ben precise, e questi spolveri danno invece sono delle vere e proprie tracce del nostro trascorso, sono dei cimiteri, delle piccole lapidi della mia cittadina di Ispica, però potrebbe essere veramente in qualsiasi parte del mondo, insomma è la terra che c'è. Certo. In questo caso è curioso il fatto che per esempio in questo spolvero io ho adattato dei diversi colori, sembra quasi come dire, giallo e rosso, come dare una vivacità, insomma, di là dell'immagine tra virgolette funesta, no? Finale di di un percorso, no? Di vita, insomma. No? E poi quindi, ti volevo anche chiedere sì. di questa scuola di Santa Rosa che con Luigi presidisce. È uno stato di grazia. No, è interessante. Raccontaci che cos'è in anfitrione. Con Luigi ci siamo inventato un momento, no? Da scorrere in un ritaglio temporale che noi da 4 anni ogni martedì condividiamo con altri ragazzi. Ed è fondamentalmente a Firenze, però a Firenze, è anche itinerante. Sì. Verrà anche a Lissone. Sono veramente dei momenti di condivisione rilassanti. Ma perché l'avete chiamata scuola e non qualcos'altro? Ma la scuola è perché io quando ho pensato a quella, l'ho definita io questa cosa, mi pensavo alla scuola di uno dei protagonisti di un romanzo di Robert Walser, no? La scuola Benementa, un istituto Benementa, dove lui gli raccontava che si andava lì per non imparare nulla, no? Questa cosa ci piace molto, no? La totale libertà, no? E soprattutto veramente un momento che ci concediamo per, no, come dire, per allontanare le tensioni, le ansie delle prestazioni di cui generalmente, quotidianamente siamo tutti sottoposti. Ti faccio un'ultima domanda, ma da chi non ti conosce, che cosa vorresti da chi non ti conosce quando viene a vedere questa mostra? Qual è l'attenzione che dovrebbero ricercare nel tuo lavoro? L'attenzione secondo me è versata verso una curiosità, verso il modo di vivere e di comprendere il mondo. Qua stiamo parlando, ma mancano ancora dei dettagli, manca per esempio un sonoro, no? Che sarà tutto il museo, sarà letteralmente allagato dal mare. Allagato dal mare, adesso noi qui siamo alla settimana prima dell'inaugurazione. Quando Francesca mi ha chiamato per fare un intervento qua, la prima cosa che ho pensato è che devo portare il mare lì sopra. Ah, certo. E allora ci sarà un sonoro che comprenderà le 3 stanze dove si sentirà il rumore del mare e un eco di un party house, no? Ho capito. Per cui mi piacerebbe anche vedere la gente che guarda i quadri danzando, comunque, che bello. No? Agitarsi intorno. E dunque venite a danzare alla personale di Lauretta al Museo d'Arte Contemporanea di Lissone. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. A te. Una delle novità di quest'anno appunto al MAC di Lissone è proprio la nuova direttrice e ora vado a leggere dal sito dell'Università di Milano la biografia di Francesca Guerisoli. PhD, lavora nell'arte contemporanea come critica d'arte, docente, curatrice e giornalista. Da settembre 2021 è appunto direttrice artistica del MAC, Museo d'Arte Contemporanea di Lissone. E come capite dal sito che sto leggendo dell'Università di Milano, è anche una docente. I suoi interessi di ricerca comprendono lo studio del rapporto dell'arte con la dimensione sociale e politica, la museologia del contemporaneo, le nuove tendenze artistiche. dottore di ricerca nell'area della sociologia della cultura, diplomata presso la scuola di specializzazione in storia dell'arte contemporanea con un master in curatela delle arti visive, ha lavorato sia all'organizzazione di progetti espositivi per enti pubblici che in realtà no profit, sia come curatrice indipendente. Ha pubblicato un discreto numero di libri, tra cui La città attraente, Luoghi urbani e arte contemporanea, Ni una mas, arte e attivismo contro il femminicidio, e tanti altri, tra cui appunto, e poi comunque collabora con Il Sole 24 Ore e ha scritto ampiamente per Alfabeta 2. Siamo andati appunto a sentire che cosa ci racconta di questo Museo d'Arte Contemporanea di Lissone, Francesca. Francesca Guerisoli, nuova direttrice del MAC di Lissone, ti vedo carichissima. Molto. Cosa cambierà nel MAC di Lissone dalla tua direzione? Beh, ti posso dire che cosa porterà la mia direzione. Ok, innanzitutto ci ha portato una mostra fantastica di Francesco Lauretta che sono venuto a vedere appositamente perché avevo visto poco del suo lavoro e devo dire che è veramente una gran mostra. Grazie, sì, è la sua prima antologica museale, cioè al momento non era mai stata dedicata a una mostra di questo tipo, che quindi riunisce le sue opere principali dell'intero suo arco di produzione, fino ad arrivare appunto a quelle più recenti che sono ancora proprio in fase di lavorazione, quindi troverete anche tutta la serie festivale che poi si svilupperà a Catania prossimamente. E ci sono appunto anche degli spolveri site specific sulle pareti del MAC, ci sarà una performance, faremo un catalogo con testi critici e installation view che verrà presentato alla fine mostra il 29 di gennaio. Quindi questo è un primo appuntamento piuttosto denso, piuttosto ricco, che durerà 3 mesi, quindi fino al 29 di gennaio. Ma oltre a questo è stato appena approvato in giunta un progetto che ha un respiro annuale. Si tratta di un progetto che si svilupperà nel piano interrato, cioè dove ha sede la collezione storica del premio Lissone Pittura. Che ricordiamo ai nostri ascoltatori è dal 1954 che c'è? Fino agli anni 60. Ok, quindi, diciamo, poi c'è stata una pausa? Poi c'è stata una pausa del premio, poi è stato rifatto il premio, rifondato il premio, che è il premio Pittura, attualmente certo. Diciamo in corso ogni 2 anni, si alternano il premio Lissone Pittura al premio Lissone Design. Nel 2022 avremo per esempio il premio Lissone Design, quindi okay. Finita la mostra di Lauretta ci sarà il premio Lissone Design, mentre 2023 il premio Lissone Pittura. Allora, in questo piano interrato a sede la collezione storica con opere importantissime, sì, ci sono visto. Gli ultimi naturalisti di Arcangeli per esempio, ci sono quindi Morlotti, un Vedova bellissimo, mm-hmm. uno Schifano, insomma diverse opere piuttosto interessanti per quel periodo. E il lavoro che andremo a fare lì è un lavoro di riscoperta della collezione dello storico premio Lissone, che è fondante rispetto a questo museo, ma al tempo stesso è un po' stata dimenticata, no? Mm-hmm. Penso sia a livello nazionale e purtroppo anche a livello locale. Quindi l'idea è proprio quella di rilanciarla, nonostante appunto sia stato fatto anche un lavoro di ricerca importante da parte del mio predecessore con delle pubblicazioni su quella collezione che sono molto interessanti. Però appunto ci poniamo quindi nel mio caso su un livello diverso, un livello che riguarda un lavoro site specific e context specific rispetto a quella collezione, rispetto a quell'allestimento e a quella sala. Quindi gli artisti che verranno invitati sono 4 artisti che si alterneranno, che si svilupperanno da novembre, dal 19 novembre di quest'anno fino al novembre dell'anno prossimo, il primo dei quali è Flavio Favelli. Ogni artista viene invitato per lavorare appunto, come dicevo, context specific, quindi interrogandosi su quelli che sono i nodi, che sono le caratteristiche, che sono le potenzialità della collezione storica e del suo allestimento attuale, per andare proprio a porci domande su allestimenti possibili, no? Su come può essere riletta, come può essere anche rivalorizzata quella collezione, andando a creare appunto un tessuto di domande per arrivare poi a formulare delle risposte che ci diano delle indicazioni su poi operative, quindi per l'anno successivo. insieme a questi interventi degli artisti ho pensato di coinvolgere degli esperti, mm-hmm. esperti museali, quindi altri direttori di museo, piuttosto che accademici che si occupano appunto di temi quali appunto la museologia e la museografia del contemporaneo o appunto di quegli anni del premio Lissone, che di volta in volta quindi andranno a sviluppare delle analisi, delle narrazioni rispetto a tematiche specifiche. Quindi alla fine di questo percorso avremo un'antologia di scritti e di opere, no? che avranno lavorato in questo solco. Quindi prima di agire su una collezione storica, prima di agire su un allestimento, ho preferito andare a porre queste domande, che poi è un po' anche una sfida, no? Ce certo. lo dicono anche i nostri tempi. A me piace tantissimo l'idea che il museo si interroga sul ruolo del museo. Esatto, esattamente. Fantastico. C'è un po' anche una sfida di questi tempi, no? Quando si dice che è una, siamo in tempi esatto. di reset, no? Ma non Infatti, di reset... È una sfida coerentissima, perché come sappiamo appunto i fruitori del museo stanno calando in numeri. Malgrado alcuni episodi in cui magari invece crescono, eccetera, che ne so, Van Gogh, le mostre di Van Gogh diventano sempre più impossibili, esatto. Però in realtà nel contemporaneo il numero di fruitori cala proprio perché sta calando l'interesse sul contemporaneo. Ma una carica come te naturalmente sta lavorando attivamente per fare che questo non succeda, anche, anzi, per riversare il trend, insomma. Guarda, io sì, sono tra l'altro in conoscendoti effetti... so che sei anche attentissima ai numeri, eccetera, hai lavorato al Sole 24 ore. No, il Sole è un caro amico, infatti. Diciamo, anzi, quello che mi ha insegnato il Sole è proprio anche quello di considerare anche quell'aspetto, no? Certo. È chiaro che va contestualizzato, mm-hmm. però ci sono dei fenomeni che possiamo analizzare attraverso i numeri, quindi perché non farlo? Uno strumento ulteriore di comprensione della realtà, per cui perché non usarlo solo perché facciamo arte? Insomma, credo che invece tutto quello che ci può essere utile lo dobbiamo integrare nelle nostre ricerche. Detto ciò, io se qui mi chiedi che numeri ti aspetti, ovviamente io su questo non so dire assolutamente nulla. E forse un po' nulla. Presto per quello. Assolutamente mm-hmm. nulla, tanto più che siamo in tempi interessanti ancora certo, con questo Covid infatti. Di mezzo. Però quello che ti posso dire è che io mi aspetto che ci sia un bel passaparola, mm-hmm. cioè che la gente venga al museo, non so, uno studente, che sia così incuriosito da ciò che vede che poi ci porti magari gli amici certo. o i genitori, mm-hmm. no? E così via. D'altronde è risaputo che il passaparola è il modo più... che porta più visitatori all'interno delle mostre, più che le pubblicità, no? Certo. Quando non parliamo ovviamente di mostre blockbuster che hanno cartelloni. E poi ricordiamo comunque. Che comunque il museo è gratuito, che è una cosa importante. Insomma. È un museo civico ed è la scelta strategica del comune, proprio quella di renderlo ingresso gratuito in modo tale che chiunque voglia possa accedervi senza... nessun pagamento. Ottimo. Neanche le mediatrici culturali che sono presenti in mostra ovviamente possono fornire indicazioni ulteriori rispetto alle collezioni senza dover come dire corrispondere alcunché. Okay. Poi certo ci sono dei progetti che certo. sono, ma quello è un altro discorso. Bene, io ti ringrazio moltissimo e poi naturalmente ci rivediamo qui a Lissone. Assolutamente sì, vi voglio vedere tutti a Lissone, venite. Il museo sorge nel piazzale della stazione ferroviaria, quindi per cui non c'è scusa, non c'è che scusa, cioè potete non avere la macchina, potete non avere l'aereo, no. Basta prendere un treno da Milano Porta Garibaldi o da Centrale o da altre stazioni disseminate per Milano e arrivate direttamente a Lissone in un quarto d'ora. Fantastico, grazie mille. Grazie a voi, a presto. Is this moment? is history. So why don't you be here with me? All we have is this moment to put our love into motion. Yesterday is history. So why don't you be here with me? Be here with me now. Do you ever think that we're just chasing our tails, like life is one Continuiamo anche il nostro angolo della menzione con un evento che inaugura il 5 novembre alle 11 di mattina all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che ormai sta diventando nostra amica. Stiamo parlando della mostra personale di Giorgio Zucchini, che si intitola I miei occhi ardevano, sempre a cura del nostro caro Sandro Malossini. La mostra è su FID dal 5 al 28 novembre e gli orari dell'Assemblea Legislativa, che ricordiamo essere in viale Aldo Moro 50, sono orari da ufficio, al contrario di delle gallerie, per cui se un lunedì non sapete dove sbattere la testa perché tutti i musei e le gallerie d'arte sono chiuse, sappiate che l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna invece è aperta appunto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 ed è chiusa sabato e festivi. Naturalmente l'ingresso è gratuito e come al solito trovate tutti i dettagli su www.coxospaziale.blogspot.com. Prima di salutarci vi volevo far sentire un pezzo di questa band di due artisti visivi. La band si chiama Bubba's Brigada e dice il sito è un duo dalle sonorità roots blues, pop e punk rock, formato da Fabrizio Rivola alla chitarra e Petar Stanovic batteria e voce. Petar, fra l'altro, se non erro, non l'abbiamo avuto in studio, ma era anche il curatore di questo spazio radicchio in cui appunto chiedeva agli artisti di inserire le loro opere all'interno di una cassetta della frutta all'interno di un mercato ortofrutticolo. Comunque, ritorniamo a Bubba's Brigada. Il progetto nasce dall'ormai decennale collaborazione tra i due nel campo delle arti visive, durante la quale realizzano diversi video d'arte e le relative colonne sonore. Partendo da una serie di video che esplorano le origini del blues e i racconti tratti dalle work songs, nasce l'idea dei Bubba's Brigada. Sebbene le loro influenze musicali spazino dal Delta al Balkan Blues, dal Billy Willie Johnson, Mississippi Fred McDowell e Earl Burnside, attraverso i primi Black Keys al pop rock e al garage, i Bubba's Brigada si definiscono un gruppo roots pop blues. E il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è Jinko. Come al solito su www.coxospaziale.blogspot.com da domani troverete non solo la possibilità di riascoltare questa trasmissione, ma anche i link alle mostre e ai gruppi, in questo caso i Bubba's Brigada, così potrete approfondire quello che abbiamo ascoltato oggi. E al solito la puntata è finita, io ero Stefano W. Pasquini, vi ribadisco la necessità di una co-conduttrice temporanea, per cui anche solo se volete provare l'emozione di essere in studio con me una sera a Coxo Spaziale, scrivetemi a coxospaziale@gmail.com. Come al solito vi lascio con le fantastiche parole del nostro direttore di testata, anzi di radio. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. It's the end of the Jenny stream. And you know, I hate to say goodbye.